America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It is Newt Gingrich going away in South Carolina. David Gregory, il conduttore di Meet the Press, uno dei programmi più seguiti della domenica mattina. Is he for real? Si è parlato molto di repubblicani, di campagna elettorale e del dibattito che c'è stato sabato sera a Des Moines in Iowa, dove il 3 gennaio si terrà il primo caucus, il primo appuntamento elettorale. Avremo il primo risultato di questa lunga corsa elettorale. E dunque, cosa dice David Gregory a un certo punto? Dice: ma insomma, questo Gingrich improvvisamente è balzato in testa alle classifiche, ce la farà addirittura in South Carolina, quindi si porta in avanti. Abbiamo prima l'Iowa, poi avremo il New Hampshire e poi la Carolina del Sud. Perché fa questa domanda? Perché in effetti dagli ultimi sondaggi è emerso che Newt Gingrich è in straordinario vantaggio nella Carolina del Sud, con 41 punti percentuali nei sondaggi contro i 21,7 di Mitt Romney, e ha come suo ospite Lindsey Graham, il senatore della Carolina del Sud. Sentiamo cosa dice Graham. Yeah, I think if the election were held tomorrow, he'd win South Carolina, and I saw bits and pieces of the debate. It's clear to me that Newt Gingrich is... Se si votasse domani in Carolina del Sud, Newt Gingrich sarebbe il vincitore. Ecco, questo vi dà un po' la misura di dove siamo in questo momento nella corsa elettorale americana, perché Newt Gingrich è un vecchio leone della politica di questo paese. Nel periodo 94-98 fu uno degli uomini più potenti di Washington, preparò un decalogo con cui riuscì a conquistare la maggioranza in Parlamento, sconfisse Bill Clinton alle elezioni di metà mandato, appunto nel 94, riuscì ad imporre un'agenda conservatrice, e qui arriviamo al punto: è diventato il grande eroe dei conservatori. E dunque che succede? Che nel momento in cui un paio di candidati che sembravano essere quelli favoriti per l'ala conservatrice del partito, e cioè Rick Perry in prima battuta e poi Herman Cain in seconda battuta, sono usciti di scena, non restano che due personaggi. Uno è Ron Paul, che in effetti è molto amato in Iowa e chissà, potrebbe anche essere una sorpresa, e l'altro è Newt Gingrich. Quindi c'è stata l'altra sera, in questo dibattito, devo dire un dibattito molto vivace, una coalizione un po' di tutti contro il nuovo apparente leader del partito, contro cioè Newt Gingrich. I've always kind of been of the opinion that if you cheat on your wife, you'll cheat on your business partners. Il primo, lo avete sentito, è di Rick Perry, che dice: ma insomma, se qualcuno è infedele con la propria moglie, poi finisce per essere infedele anche con i suoi elettori. Ed ha attaccato così violentemente Gingrich perché? Beh, perché Gingrich è alla terza moglie, lui ha 68 anni, è sposato con una donna molto molto più giovane di lui, devo dire molto bella, ma soprattutto ha avuto svariati affairs mentre era sposato con le due precedenti mogli. In un caso in particolare, con la prima moglie, quando lei era malata di cancro, lui aveva, diciamo, delle avventure che non depongono molto a suo favore nel contesto del partito repubblicano, che si rifà valori di Dio, patria e famiglia. In my case, I've said up front openly, I've made mistakes at times, I've had to go to God for forgiveness, but I'm also a 68-year-old grandfather, and I think people have to measure who I am now and whether I'm a person they can trust. E dunque Gingrich come ha risposto? Beh, è stato prontissimo, perché ha ammesso di aver avuto dei momenti di debolezza e ha detto: il mio unico giudice sarà Dio. Poi se qualcuno vorrà giudicarmi su questo e deciderà di giudicarmi male, beh, che lo faccia. Io non ho nulla da nascondere, sono degli errori che ho commesso. A questo punto sono un nonno felice, ma sono anche un marito felice. È la cosa più intelligente da fare, perché affrontando il tema in modo diretto lo si rende meno preponderante. Il secondo attacco, e questo forse è quello più difficile, perché si mette in dubbio quella che Gingrich vanta essere la sua credenziale più forte, cioè quella di essere un conservatore. He received a lot of money from Freddie Mac. So Freddie Mac is bailed out by the taxpayer. So in a way, Newt, I think you probably got some of our taxpayers' money. Su questo c'è stato un 1-2, nel senso che vi ho fatto ascoltare Ron Paul. Ron Paul attacca, dice a Newt Gingrich: tu hai preso soldi da Freddie Mac. Freddie Mac è un'agenzia americana che garantisce i mutui immobiliari, un'agenzia dello Stato. I repubblicani conservatori non vogliono che lo Stato entri in faccende di questo genere, non sopportano che Freddie Mac esista come organizzazione, o Fannie Mae, la consorella di Freddie Mac. e dunque questo non depone a favore di Newt Gingrich. Perché? Beh, perché lui ha ammesso di essere stato un consulente di Freddie Mac. Allora Paul gli dice: no, tu sei stato un lobbista. Lui dice: no, sono stato un consulente strategico. In realtà, pensate, Gingrich ha incassato 1,8 milioni di dollari da Freddie Mac, e lì l'attacco finale di Paul: ti sei messo in tasca una buona quantità di soldi del contribuente americano. Yeah, I never did any lobbying for any agency. I offered strategic advice. I was in the private sector. And I was doing things in the private sector. Gingrich si difende, dice: no, ma io allora lavoravo nel settore privato. E infine la botta finale gli arriva, guarda caso, da Mitt Romney. Nel settore privato, dice Romney, beh, su K Street, e cioè quella specie di quadrilatero, K Street è la strada principale su cui ci sono una gran quantità di uffici, di lobbisti, di avvocati, di media, di think tank, che è stata rappresentata in una famosissima serie televisiva di telefilm che si chiamava appunto K Street, che mostrava il peggio della corruzione di Washington. E quindi Romney gli dice: non mi risulta che a K Street ci fosse molta attività privata. I read your first book and it said in there that your mandate. Rick Perry, governatore del Texas, attacca un pochettino Romney, gli dice: ma tu hai cambiato posizione fra i tuoi due libri sulla riforma sanitaria, volevi farla in un certo modo e poi hai cambiato. Allora a quel punto Romney interviene e dice: guarda, basta, tu continui a dire questa cosa. Eh sì, dice, l'ho detta in altre occasioni perché è vera. No, dice, non è vera, non è vera, al punto che gli tende la mano e gli dice: scommetti $10,000 che hai sbagliato e che ho ragione io. A quel punto Perry resta un po' imbambolato perché in diretta televisiva non se l'aspettava, risponde così un po' balbettando, ma gli dice: io in genere non accetto scommesse e non faccio le scommesse. E Romney è convinto di aver incassato il punto, se non che Romney ha parlato di $10,000, ha parlato di $10,000 in momento di crisi, gli altri contendenti ci sono saltati sopra, e questo episodio dei $10,000 è stato giudicato da gran parte dei giornali come una gaffe che ha fatto Romney, visto che in Iowa il reddito medio di una famiglia si aggira intorno ai $30,000. Beh, darne un terzo in scommessa dimostra che è così, è un po' fuori dal giro, è uno scivolone di Romney nel momento in cui si trova incalzato da Gingrich. Finisco con un paio di curiosità americane. Pronostico: la richiesta di Obama di poter prolungare i tagli sui contributi sociali, che sono delle trattenute in busta paga, quasi sicuramente passerà, anzi, e qui mi espongo, passerà entro i primi di gennaio. Seconda curiosità: Amy Chua, forse la ricorderete, ha scritto un libro, un inno alla madre tigre, e cioè queste madri asiatiche che tengono sotto strettissima disciplina i loro figli, e dunque tenendoli sotto stretta disciplina poi questi figli fanno benissimo a scuola. In qualche modo criticava il lassismo delle famiglie americane, che sono molto indulgenti, politically correct, cioè no, qui ci vuole una severità assoluta. Ecco, c'è stata l'edizione cinese di questo libro. Come è stato tradotto? Essere una madre americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Elliot Carter, classe 1908, ha compiuto ieri 103 anni. È un grande compositore americano, vive a New York, è ancora in ottima forma. Pensate che dopo i 90 anni ha scritto oltre 50 nuove opere. Di Elliot Carter, Pocahontas. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.